La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua puntuali all'incontro settimanale con il cinema qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, comincia la nostra ora di cinema. 10 film in sala nuovi in questo weekend. Un'esagerazione forse, noi ne abbiamo selezionati 5, su quelli ci concentreremo, ma c'è del materiale molto molto interessante a partire dal ritorno di Lars von Trier con il suo straordinario Melancolia. Non parleremo solo di questo, anzi parleremo anche molto di Bar Sport, la principale proposta italiana, forse il primo film italiano, commedia italiana di questo autunno che possa davvero spaccare al botteghino, come si suol dire, con Claudio Bisio, protagonista già del successo dello scorso anno, Benvenuti al Sud, e poi con alle spalle un grande libro di culto come quello di Stefano Benni. Avremo le interviste qui alla Rosa Purpura e parleremo anche di altri film particolari, forse un po' di nicchia ma molto molto interessanti. Allora cominciamo a riepilogare tutto nei nostri titoli di testa. Il Bar Sport sbarca al cinema. Dal libro cult di Stefano Benni, che ha incantato e divertito più di una generazione, un apologo comico-filosofico su amore, politica e calcio, ovvero i classici temi da bar. Ne parliamo col protagonista, Claudio Bisio. Una coppia, due destini. È Una separazione, Orso d'Oro al Festival di Berlino, diretto dal regista iraniano Asghar Farhadi. Nostro ospite alla Rosa Purpurea, uno spaccato di vita e fatica quotidiana, nella Teheran di oggi, fra la voglia di modernità e i limiti di una malintesa religiosità. Un pianeta si avvicina alla Terra, la sfiora, si allontana, ritorna. E noi, a cavallo del pianeta azzurro, votato alla distruzione. Pessimismo cosmico e grande cinema nel nuovo capolavoro di Lars von Trier, Melancolia, per vedere la fine del mondo con gli occhi di una bravissima Kirsten Dunst. Trasformarsi in supereroi per vincere le frustrazioni e le delusioni della vita. È quel che accade al protagonista di Super. La moglie lo lascia, gli amici lo sfottono e lui cerca un futuro da super antieroe, con passione e divertimento. Allora, cominciamo proprio da uno di quei titoli particolari che arrivano nelle sale italiane in questo fine settimana. Si tratta di Un poliziotto da Happy Hour. Ora, non fatemi fuorviare da questo titolo totalmente idiota, perché il titolo originale, The Guard, è quello che conta, cioè la guardia, il poliziotto. L'Happy Hour non c'entra, è un titolo fuorviante che fa pensare a qualcosa di commedia un po' pecoreccia. In realtà è un film molto particolare, sì, una commedia, ma molto grottesca, con un personaggio totalmente e politicamente scorretto. E insomma, un esempio classico di traduzione pessima dei titoli italiani. Però, insomma, il film c'è, è molto irlandese, lo è davvero tanto, fino al midollo. Allora ascoltiamo subito una clip da questo film e poi ci colleghiamo con il nostro Boris Sollazzo. Sergente Jerry Boyle, l'ultimo degli indipendenti. Ho delle informazioni sull'omicidio di ieri sera. Quale omicidio? Quanti omicidi avete in quel buco di paese? In effetti, il suo nome, signore? Sono Fiona, tua sorella! E io che pensavo di essere figlio unico. Questa sera deve recarsi a un briefing di un tipo che è stato mandato qui dall'FBI, agente speciale Wendell Everett. Sono uomini molto pericolosi, e se... Sì, sergente? Credevo che solo i neri fossero spacciatori. Eh beh, avete sentito tutto un programma, questo poliziotto interpretato da Brendan Gleeson. Noi ne parliamo con Boris Sollazzo, che salutiamo e raggiungiamo al Festival di Abu Dhabi, sempre in giro per il mondo con i Festival del Cinema. Boris Sollazzo, allora, ciao Boris, ben ritrovato qua alla Rosa Purpurea. Ciao Franco. Allora Boris, un sergente veramente anticonformista, possiamo dire, il protagonista Brendan Gleeson, irlandese, nazionalista, anche un po' razzista, grande senso dell'umorismo, insomma un personaggio di quelli difficili forse anche da far girare per il mondo del cinema. No, devo dire che quanto riguarda il titolo, purtroppo è la stessa casa di distribuzione italiana che ha fatto diventare Eternal Sunshine of Spotless Mind Non lasciarmi di cancello, quindi ormai non è più una sorpresa. Per quanto riguarda il film secondo me è un piccolo gioiello, lo chiamerò con il suo titolo, ovvero The Guard. Mette insieme un Brendan Gleeson e un Don Cheadle in stato di grazia. Brendan Gleeson è quello che hai detto, cioè un razzista, un poliziotto sui generis, uno che ama le uniformi solo nel momento in cui le mettono due spogliarelliste, quindi per farvi capire il tipo, e che alla prima riunione con Don Cheadle, che è dell'FBI, chiede come mai gli spacciatori che stanno cercando non sono neri o ispanici, e ovviamente, come sapete, Don Cidderla è nero. Inizia così questa unione, questa amicizia, questo rapporto internazionale di polizia e di amicizia, appunto, e diventa qualcosa di speciale, qualcosa di molto divertente, molto come dire, tagliente, molto politicamente scorretto e, devo dire, alla fine anche molto romantico. Quindi è uno dei, secondo me, dei titoli che potrebbero diventare un cult della stagione, molto molto poetico e allo stesso tempo anche molto cattivo. Anche se c'è il rischio, appunto, che con la sua peculiarità resista poco, diciamo, nelle sale, con la sua distribuzione, insomma, che ovviamente non è quella di un vero e proprio blockbuster. Quindi, insomma, il consiglio da dare per vedere questo piccolo gioiellino, come dicevi tu, di acredine proprio cinematografica, assolutamente un film non omologato sotto nessun profilo. Bisogna muoversi, bisogna andarci subito al cinema e soprattutto non fidarsi di quel titolo, perché potrebbe attirare esattamente le persone che non vogliono vedere quel tipo di film acre e pieno di acredine, come l'hai definito tu giustamente. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea, seconda parte, Bar Sport, il bar che tutti abbiamo frequentato, magari non si chiamava Bar Sport, ma insomma lo abbiamo frequentato, il bar ritrovo, quello sotto casa, quello in cui si vanno ad annidare una serie di personaggi, a costruire delle gerarchie, delle situazioni che diventano veramente storia con la S maiuscola, della nostra vita, ovviamente. E a questo Bar Sport, negli anni 70, ormai sono passati veramente tanti anni, Stefano Benni aveva dedicato un libro straordinario per capacità di penetrazione, per essere diventato un simbolo di una generazione, dove si raccontava di questi personaggi, ma anche della mitica Luisona, di questa brioche che restava dentro nella vetrina del bar, così sembrava sempre quella, sempre se stessa, potremmo dire. Ora, tantissimi anni dopo, questo libro diventa un film con la regia di Massimo Martelli, con la partecipazione nel cast di uomini da commedia, facce da commedia importanti, che vanno da Antonio Cornacchione ad Antonio Catania, da Teo Teocoli a Lunetta Savino, ad Angela Finocchiaro, ma soprattutto a Beppe Battiston e Claudio Bisio. E così, più commedia di così davvero non si può. E allora sentiamo il racconto del film dalla nostra Chiara Pizzimenti. Io sono il proprietario del Bar Sport. Piacere, Antonio. Detto Onassis. Perché è così tirchio che se va avanti così diventa ricco come lui? Lui è Muzzi, poi c'è Eros, il tecnico, Fornara, Stambazzini, Cocosecco, l'Elvira e là in fondo due vecchie. È il titolare a presentare gli avventori del locale, non un bar qualunque, ma il Bar Sport, quello descritto da Stefano Benni nel 1976 in un testo simbolo di comicità e ironia tradotto in decine di lingue, rimasto solo sulla pagina finora per la refrattarietà dell'autore a concedere i suoi libri al grande schermo. Lo ha convinto Massimo Martelli, mettendo in campo un cast di alto livello, a partire dal barista Giuseppe Battiston, passando per Lunetta Savino e Angela Finocchiaro, Antonio Catani e Bob Messini, Teo Teocoli e Claudio Amendola, per arrivare a Claudio Bisio. Che ti sente bello? Che c'entra di sente bello? Scusami! Siete bello, impari al mazzo! Siete bello, mi sei servito! Ti torno a te! Alla fine ti fai, siete bello, carte, ori, primiere, pure due scopi! E 37! E 37? Sì! Scusa. Il bar è un mondo a parte che si ritrova con la sua fauna in città e paesi, non solo della campagna bolognese in cui è ambientato, insieme a un luogo dell'anima con personaggi, colori e profumi che tutti hanno incontrato una volta nella vita, compresa la decana delle brioche. La Luisona! Sembra viva. Piccola che ti sono bruciato, tutti i ricordi del tuo passato. Non è possibile raccontare la trama di questo film, non c'è. C'è una storia di amicizia, assente nel libro, di cui tornano invece arricchiti i personaggi con ottimi interpreti e gli aneddoti, compresa la trasferta a Firenze quando il Bologna perse 6-0 dopo essere stato lungamente in vantaggio, e le storie di Piva e Pozzi, sportivi d'altri tempi, ottimamente rappresentate in animazione. Sono queste le parti che erano già nel libro, riprese con le parole di Benni, le cose migliori della pellicola, che manca di una storia, ma certamente restituisce un'atmosfera. Se il libro però faceva ridere, qui si sorride e solo a tratti. E allora sulle note di Piccola Chetti dei Pooh, niente di più identificativo anche di un'epoca e di una tipologia umana, Bar Sport, questo è il racconto di Chiara Pizzimenti che ha anche incontrato il cast, a cominciare proprio dal mattatore Claudio Bisio. La prima domanda è stata proprio questa: Claudio Bisio si è mai sentito un tipo da Bar Sport? Sì, sì, ma oggi esistono ancora, sento qualcuno dire no, oggi non esistono più quei tipi di bar. Io non sono così d'accordo, magari non esiste la parola bar sport, o meglio, esiste solo più in provincia, nelle città, insomma, li vedi un po' meno, li camuffano con dei giochi di parole, Zanzibar, barbiturico, bar, cioè io trovo, almeno a Milano vedo dei nomi ridicoli, assurdi, quindi la Luisona forse non c'è più, ci sono i tramezzini, ci sono, no? C'è l'happy hour, ci sono altri riti, però poi la sostanza secondo me c'è ancora, so io la mattina... sono un papà molto bravo, accompagno i bambini a scuola tutte le mattine, non tutte le mattine, ma quando mi capita di accompagnare a scuola ho scoperto che le mamme, che mediamente sono le mamme che accompagnano i bambini, appena accompagnati vanno un attimo al bar a prendere un cappuccino e stanno 2 ore e mezza, cioè io sì, a chiacchierare. Magari in quel caso sono discorsi da donna, io mi intrufolo, però ascolto così, magari parlano di altre cose, non necessariamente del Milan e dell'Inter. Però, quindi voglio dire, la ritualità del raccontarsi, del vivere. Qualcuno ha detto che oggi, ho sentito dire che quel bar lì oggi sarebbero, sono in social network, come si chiamano, cioè Facebook, no? Le amicizie. Io spero che non sia così. Vorrebbero forse questi social network soppiantare il bar sport, no? Ma secondo me anche uno che su Facebook ha 286 amici non valgono i 3-4 amici che ha al bar, come diceva Gino Paoli. Leggendo il libro di Benny, lei si immaginava in un ruolo, in uno dei personaggi? Io l'ho letto, scusate, mi faccio vedere che c'è anche una telecamera, quindi la voglio far vedere. Io ho l'edizione originale, quella Mondadori, perché adesso è stato rieditato da Feltrinelli, ma io ho quella del 76 proprio, con l'autografo di Stefano che me lo sono fatto, guarda, e questo per Eros, il mio personaggio si chiama Tecnico, ma è il soprannome, in realtà Eros si chiama, e questa è la firma di Stefano Benny che mi ha fatto a Sant'Agata Bolognese. Ma io ho solo 2 firme nella mia vita che non chiedo autografi, Chuck Berry e Stefano Benny, perché lascia fare. Quindi io l'ho letto, questo qua è il mio libro che ho letto, come si può notare, allora, e no, quindi non, forse non, no, sicuramente non facevo neanche l'attore, forse non ci pensavo neanche a fare l'attore, studiavo, ero uno studente, quindi non ho mai pensato allora di che cosa avrei potuto fare, neanche che avrei potuto fare l'attore, però quando il Massimo Martelli che è qui presente, che forse vuole dire una cosa insieme a noi, perché la voce... Ecco la voce del regista, si sente. Ce la fai? Sì. Cioè. E quando... Non metterti sulle punte. Ma sono delle radio. Scusa. Beh, no, c'è la telecamera. Magari non sei quando Massimo... perché un progetto che ha avuto una storia pluriennale, cioè non è che ci ha messo 2 o 3 mesi a farlo. Quindi quando qualche anno fa mi cominciò per la prima volta a parlare di Bar Sport, da subito si parlò del Tecnico. Io ci guardavamo negli occhi. Poi ci sono stati dei momenti in cui si è provato a rimescolare il cast, però siamo tornati a questa idea originale perché è quella migliore, forse. Assolutamente. Lui è il tecnico perfetto. Il tecnico c'est moi, direbbe Flaubert. Esatto. No, lui è un tecnico perfetto e devo dire grazie a Claudio, perché quando Claudio è stato Mendola, a Claudio, perché è stato dentro il progetto sin dal primo momento, e in Italia è molto importante chiudere, come si dice, i film, che è una frase purtroppo molto volgare, nel senso che si chiudono le saracinesche, esatto, ma si chiudono anche i film. E Claudio in quel momento era uno che chiudeva i film, e gliene sarò grato per tutta la vita. Dopo Benny, Pennacca. Magari. No, l'ho detto l'altro giorno, Pennac l'incontrario, poi ho visto un'ansia partita dicendo farò Pennac, in realtà è l'incontrario, cioè raccontavo una storia del passato che non sono riuscito anni fa a fare la stessa cosa che a lui è riuscita, insieme ci è riuscita, a me anni fa non era riuscita di provare a portare Pennac al cinema. E ho detto, hai visto mai che se questo film dovesse andare bene, tocco del metallo, perché siamo scaramantici noi nel nostro mestiere, potrebbe, mi auguro che inizi un nuovo filone di una commedia, non so come definirla, poi siete giornalisti, riuscireste forse a definirla meglio di me, ma che io ritengo nuova, no? Come poeticità, come linguaggio anche cinematografico, vedi gli effetti, vedi cose. Quindi potrebbe aprire un canale anche a quella poeticità, perché secondo me tra Benny e Pennacchi c'è un bel rapporto. E queste le parole di Claudio Bisio, ma la nostra Chiara Pizzimenti ha raggiunto anche Beppe Battiston. Lettore di Benny, fin dalla gioventù. Sì, ho letto, credo quasi tutto di Benny, mi mancano le ultime cose, le cose più recenti, ma quelle antiche tutte. Sono diventato un appassionato lettore di Benny proprio dopo aver cominciato la lettura di Bar Sport, dopo aver letto Bar Sport. Mi è sempre piaciuto il suo modo di scrivere, quando Massimo e Gianandrea, che tra l'altro sono coautori della sceneggiatura assieme a Michele Pellegrini e un'altra persona di cui non ricordo il nome, colpevolmente. No, perché loro tre li conosco, l'altra persona no. Quindi quando mi hanno proposto appunto di fare questo, di interpretare il personaggio di Onassis, che peraltro è abbastanza delicato, perché nel libro, nel romanzo, è l'alter ego che Benny si costruisce per raccontare i personaggi, descrivere le storie di questi personaggi. Quando mi hanno proposto questo, la cosa mi ha emozionato e devo dire che sono molto contento di quello che ho visto, perché rispecchia la scrittura di Benny e mi ha restituito gran parte delle emozioni che ho provato la prima volta che ho letto il romanzo. Un altro Benny che può essere un film, secondo lei? Un altro Benny che può essere un film è una risposta quasi scontata, anche perché è insieme anche un augurio, se non altro per Massimo, è Bar Sport 2000. Per il futuro. Se dobbiamo ipotizzare un sequel, perché non sia, perché non questo. Allora, questo era Bar Sport, la Rosa Purpurea. È arrivato il momento di giocare con i nostri film misteriosi che dovete indovinare captando queste tracce che noi vi proponiamo. Questa è la prima. Ho detto siamo senza benzina. L'autocisterna è in ritardo. Doveva arrivare 2 ore fa. È sempre in ritardo il giovedì. Ecco, qui è una roba da cultori, cioè se l'avete già capito siete proprio bravi, ma questo è un film che ha tantissimi appassionati proprio d'oro, quindi poi più tardi saremo un po' meno cattivi, però per il momento è roba per adepti. La Rosa Purpura, @radio24.it, se avete già indovinato, più tardi altre due possibilità. E le note del Tristano e Isotta di Wagner ci portano nel mondo incredibilmente raffinato del nuovo capolavoro, parola non sprecata, ve lo assicuro, di Lars von Trier, Melancolia, che arriva nei cinema italiani dopo aver fatto vincere il premio per la migliore interpretazione femminile a Kirsten Dunst, la sua protagonista, a Cannes, con un cast ampio: Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland, Charlotte Rampling e tanti altri, John Hart, tanti altri grandi attori. È uno dei film più difficili da raccontare che mi sia capitato di incontrare in questi anni, Melancolia. Se si volesse ridurlo alla trama, una prima parte è dedicata a un matrimonio, quello appunto di Kirsten Dunst, organizzato in una splendida tenuta su un campo da golf con un castello, in un luogo che pare quasi incantato e senza tempo, dalla sorella Charlotte Gainsbourg. Ma questo matrimonio sembra subito avere una cappa quasi metafisica addosso di dolore, di mal sopportazione. Gli invitati litigano come in Festen dell'amico Thomas Vinterberg, amico di Lars von Trier ovviamente, e c'è qualcosa che non funziona, tanto che insomma il matrimonio ha subito una sua prima frattura. Kirsten Dunst non è più se stessa, è molto depressa, e questa è la prima parte. E dopodiché c'è la seconda parte, nella quale sembra quasi qualche giorno dopo, nella stessa magione ormai abbandonata dagli ospiti, una avvilita Kirsten Dunst, depressa oltre misura, viene tirata un po' fuori da queste secche dalla sorella, che invece è una donna molto pragmatica, con un figlio, un marito, tutto per bene. Cosa lega questi due momenti apparentemente separati? Una presenza astronomica, potremmo definirlo, ovvero quella del pianeta Melancolia. Nella prima parte, quella del matrimonio, è un puntino piccolo piccolo, una stella, qualcuno si chiede ma che cos'è quella stella nuova, e siccome in famiglia c'è anche un astronomo glielo dicono, è il pianeta Melancolia che ciclicamente si avvicina alla Terra, questa volta passerà molto vicino, sarà molto visibile, ma non preoccupatevi, non la sfiorerà. E beh, ci mancherebbe altro. Nella seconda parte invece questo pianeta arriva molto molto molto vicino, tanto da cominciare a far temere l'intera umanità sulla sua sorte. Siccome il film comincia con 10 minuti straordinari a livello visivo, per la prima volta Lars von Trier usa anche gli effetti speciali, dove si capisce subito che il mondo finirà in questo senso, cioè che l'impatto fra i due pianeti ci sarà, noi non sappiamo di non rovinarvi nessun finale, non è lì il tema. Io ho letto tante cose su internet in questi giorni su questo film, fra cui alcune fesserie, tipo un film sulla fine del mondo, ma non diciamo eresie, questo è un film sulla su ognuno di noi che si scontra con un pianeta, è un film assolutamente metafisico ed è un film sulla depressione, sui depressi, su come la loro sensibilità cambi rispetto al sentire del mondo. Altro che un'altra cosa che ho letto era fantascienza come genere, ma insomma siamo veramente fuori strada. È un grande film, è un grande film di un impatto visivo straordinario, questo Melancolia. E allora cominciamo a sentirne una clip, tanto per entrare un po' nel clima. Siamo soli. La vita è soltanto sulla Terra. E per poco ancora. Insomma, avete capito che non è un film che lascia indurre lo spettatore all'ottimismo, però è un film dal quale si esce con gli occhi e il cuore pieni di grandissime immagini, con una regia davvero sontuosa, con un'interpretazione straordinaria, appunto quella di Kirsten Dunst, meritatissimo il premio a Cannes, e con un desiderio di interrogarsi che non riusciamo a spiegarci bene subito dopo, ma vi assicuro, un film, questo di Lars von Trier, che dura molti e molti giorni dopo la visione. Lars von Trier, qualcuno ha detto Lars von Malik, perché ci sono tante similitudini anche spirituali rispetto a Tree of Life di Terence Malik. Dicevo, Lars von Trier con Melancolia, qui La Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea. Le vostre motivazioni non sono sufficienti per il divorzio, signora. Se avete altri motivi, esponeteli. Lui non vuole venire con me. Se ora mi dice che viene, io accetto e ritiro immediatamente la mia richiesta, signor giudice. Vuoi partire con me? No, non sono disposto. Perché non vuole venire, giudice? Chiedetegli il perché. Lo sai benissimo, è solo una cosa. No, non lo so, per favore, spiegalo di nuovo, perché non sei disposto. Lei mi dia un motivo perché in queste circostanze dobbiamo andare all'estero. E tu dammi un motivo perché dobbiamo rimanere. Questo è un problema vostro. E questo è il serafico parere del giudice davanti al quale si portano Nader e Simin, i protagonisti di Una separazione, il film che apre la terza parte della Rosa Purpurea, che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino proprio nel febbraio del 2011, che è la nuova opera di un regista come Asghar Farhadi, che già con Ebautelli aveva ben impressionato, e che tra l'altro fra poco sarà qui nostro ospite con un'intervista esclusiva su questo film. Una separazione, quindi, per raccontarci un Iran dall'interno di una famiglia giovane con una bambina, nella quale il dissidio è questo: andare via rimanere, forse perché, come vuole Nader, non si possono abbandonare i genitori nel momento del bisogno. Nader ha il padre malato di Alzheimer, non se la sente di abbandonarlo per seguire le volontà pur legittime della sua moglie Simin, e allora parte questa separazione, ma in mezzo, come sempre, tutto viene stritolato: figli, affetti, lavoro, vita quotidiana, la qualità della vita che decade in maniera vertiginosa. E questo è un po' il corollario di questo film. Nader è costretto ad assumere una giovane donna, una giovane madre, per accudire, per fare da badante al padre e poter così lavorare, continuare a fare una vita più o meno normale, ma questa alchimia non funziona, e tra l'altro, fra un retaggio di bugie, di mezze verità, Nader si troverà di fronte anche a un fatto molto drammatico che gli cambierà la vita. Questo è un po' il racconto, come sempre un pretesto come sempre accade, come spesso accade al cinema iraniano, e fra poco lo sentiremo dalla voce di Asghar Farhadi, un pretesto per raccontare qualcos'altro, per raccontare di una società che è un po' anche dilaniata. In questo c'è un termine di grande universalità anche con il mondo occidentale. Il film è stato girato durante le rivolte che ci sono state in Iran qualche mese fa, e quindi diciamo più di un anno fa, e quindi è un film che come dire, porosamente attrae e assorbe anche queste istanze più generali. Spesso capita nel cinema iraniano raccontare il privato, raccontare il piccolo, per metaforicamente invece aprirsi al grande, all'universale. E allora proprio da qui siamo partiti con l'intervista con Asghar Farhadi, cercare di capire quali sono le connessioni di universalità, i messaggi che sono riconoscibili anche dal pubblico occidentale di questo film, Una separazione. Dipende da quale angolazione si guarda la storia. Se la guardiamo da un'angolazione sociologica, è così. Quindi noi apparentemente stiamo raccontando le vicende di due famiglie che sono in contatto tra di loro attraverso cose molto piccole. Però possiamo intuire che sul fondo esistono questioni simili, ma molto più grandi. Quindi sembra che noi apparentemente dobbiamo seguire la separazione di una coppia, però poi, mano a mano che si va avanti, vediamo che in realtà sono tante le separazioni. Tra un padre e una figlia, tra una famiglia e un'altra, tra una donna e la sua società, eccetera. Ecco, c'è una malattia, che è quella dell'Alzheimer, che è raccontata dentro questo film, che mi sembra anche una scelta interessante, perché chiaramente questo desiderio del protagonista di restare attaccato al padre, di curarlo in qualche modo, scelta che fa appunto deflagrare poi la coppia, è una scelta sulla quale si trovano a combattere milioni di famiglie in tutto il mondo. Ecco, questa che viene definita la malattia dei parenti, perché è proprio una malattia che impedisce qualsiasi movimento praticamente a chi, non tanto a chi ne è affetto, non solo a chi ne è affetto, ma anche a chi sta vicino a queste persone anziane. Perché ha voluto scegliere proprio questo tipo di malattia e questo tipo di deficit? Ci sono due motivi per cui ho fatto questa scelta. Uno è un motivo personale, perché io ho avuto proprio nella mia famiglia un caso simile e quindi ero al corrente della situazione che avevo personalmente vissuto. E poi trovavo che questo tipo di malattia, rispetto alle altre malattie che procurano dolore fisico, ha, diciamo, anche altri strati, mentre il dolore fisico è circoscritto a quel dolore. L'Alzheimer di una persona che ha bisogno, diciamo, del calore affettivo, ma non riesce a entrare in comunicazione con le persone che ha intorno, mi permetteva di inserire altri strati narrativi in questa vicenda. Ecco, per quanto riguarda le difficoltà invece di girare, ci sono tra l'altro delle scene nel film anche al limite divertenti per uno sguardo occidentale, quando la badante chiede al comitato religioso se può o non può cambiare il pannolone all'anziano. Insomma, ecco, queste sono chiaramente cose che sfociano un po' nel comico, forse involontariamente. Però mi interessa il suo rapporto proprio anche con la censura. Lui tra l'altro si è esposto anche favorevolmente rispetto alla causa di Jafar Panahi, ed è un regista che mi sembra usi il cinema, un cinema narrativo, per raccontare anche dell'altro. Ecco, quanto è difficile oggi per un regista come lui, che ha anche tanto successo internazionale, lavorare in Iran? Quali sono gli ostacoli e come si pone di fronte a questa situazione che c'è nel suo paese? Adesso per me è un po' impossibile poter prevedere quello che può succedere. Però posso intuire, avendo visto anche le reazioni dopo a proposito di Ellie e quello che è successo dopo questo film, che in futuro siano un po' più sensibili e facciano un po' più attenzione, in modo che io vada a finire sotto una lente di ingrandimento. Perché di solito quando vedono i miei film, alla prima proiezione, hanno l'impressione che sotto sotto non ci sia nulla di particolare in questo film. Una vicenda familiare, ma normale. Poi quando il film esce, leggono le critiche e vedono le reazioni. Improvvisamente si accorgono che c'era qualcosa d'altro che gli era sfuggito. Quindi è probabile che al prossimo film ci sia una maggiore attenzione nei miei confronti. Sì. Salve, scusatemi, ho un problema. Sono venuta per lavoro in una casa. C'è un anziano qui e io sono venuta a badare a lui. Poi io volevo fare una domanda, perché sapete com'è, si è bagnato. Volevo sapere se lo cambio io. È peccato o non è peccato? Asghar Farhadi, Orso d'Oro al Festival di Berlino con Una separazione nei cinema italiani. È arrivato il momento di giocare nuovamente con il film misterioso di questa settimana, che come sempre nella seconda traccia diventa un po' meno misterioso. Sentiamo. I tempi sono cambiati, lo volete capire? Che avreste intenzione di fare lo stesso show con quei vestiti da beccamorti? Spaventereste la gente. E beh, qui c'è una traccia già bella succosa. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Scriveteci per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Più tardi ci sarà l'ultima possibilità. E adesso torniamo al cinema in sala, torniamo a Boris Sollazzo, che abbiamo lasciato ad Abu Dhabi e che recuperiamo nella hall del suo sicuramente lussuoso albergo, per parlare di un nuovo film, un altro film di questa settimana molto ricca di stimoli e di spunti. Si intitola semplicemente Super, e il Super in questione è un uomo normale in realtà, con le sue sfortune, disavventure sentimentali e umane, e a un certo punto cerca di capire se può uscire da questa spirale nera proprio diventando un supereroe, anche se senza superpoteri. Sentiamo la clip. Nella mia vita ho avuto due momenti perfetti. Il primo è quando ho sposato Sara. Auguri! Il secondo è stato in città. È andato di là, agente! Grazie, amico. Due momenti perfetti a compensare una vita di sofferenze, una vita di umiliazioni e di rifiuti. Cinque giorni dopo se n'era andata. Sara! Sara! Non toccare la mia macchina. Me ne vado, non dicevo toccare in quel modo. Ciao. Ci sono dei fumetti che parlano di supereroi che non hanno poteri. Supereroi che non hanno poteri? Sì, che devono usare tipo delle armi per difendersi. Allora, Boris, parliamo di questo super, perché è davvero uno sguardo molto originale sul personaggio e soprattutto sul profilo di un supereroe. Sì, si prosegue secondo me la riflessione che era iniziata con Hancock, che era proseguita con Kick-Ass, cioè come potrebbero essere i supereroi se fossero delle persone normali e piene di imperfezioni. Super forse non ha la sfacciataggine di Hancock e probabilmente non ha la struttura di Kick-Ass, è un film piccolo piccolo, ma non per questo brutto, anzi, un po' per i suoi protagonisti. Io ho una passione insana per Rainn Wilson, che qui appunto è super. Poi c'è un Kevin Bacon che sembra sempre a un passo dal declino e poi tira fuori sempre delle prestazioni con quella faccia che più invecchia e meglio diventa. C'è Ellen Page che sta scegliendo una strada tutta sua per entrare nel mondo del cinema e lo sta facendo bene. Ogni volta cambia carattere, cambia voglia, qui addirittura diciamo, è di fatto una cattiva, quindi c'è un insieme molto strano in questo film, che anche se non c'è una sceneggiatura solida, anche se non c'è una regia troppo forte, lo fa diventare un film gradevole, divertente, anche in questo senso diverso, anche se in tono minore. Non è un capolavoro, non è neanche forse un gioiello della cinematografia, però è un film che all'interno del genere supereroi sfigati, tra virgolette, comunque trova il suo modo di brillare, quindi credo di poter consigliare anche questo, oggi mi sento buono. Beh, diciamo che questo novero mette insieme anche un film d'animazione come Gli Incredibili, che tutto sommato ci stava dentro questa logica. E quanto alla regia, è anche divertente il percorso di questo James Gunn, di questo regista che è passato dal remake dell'Arba dei Morti Viventi a Scooby-Doo per arrivare appunto a un film così graffiante e particolare come Super. Sì, è un po' come l'Anderson dei Tre Moschettieri, uno che ha fatto un percorso stranissimo e che insomma prende le briciole dorate del mondo dei blockbuster e che poi a un certo punto decide di tirar fuori la testa e fare un film più suo. In questo caso secondo me ci riesce. Sono d'accordo con te sugli Incredibili, probabilmente mentre io ho citato i film Fratelli Gemelli, tu hai citato forse il padre e la madre di questo genere, cioè quello dei supereroi spiegati. Grazie Boris, a risentirci, buon festival ad Abu Dhabi. Grazie, un abbraccio a tutti. La Rosa Purpurea. La quarta parte del nostro programma, come sempre, inizia con le visioni domestiche, con i film da vedere in casa e come sempre con gli amici del settimanale Film TV che hanno dato un'occhiata per noi ai palinsesti. Abbiamo scelto insieme un paio di proposte di film che passano in televisione il prossimo weekend da poter vedere o registrare. Giulio San Giorgio in collegamento con noi dalla redazione di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco e ben ritrovati con le segnalazioni di Film TV. Allora, cominciamo con un grande del cinema francese come Alain René, con uno dei suoi film più particolari e forse anche più popolari, Parole, Parole, Parole. Sì, infatti lunedì 24 alle 15 su Rai Movie, Parole, Parole, Parole, delizioso carosello amoroso di Alain René, dove i segreti pensieri dei protagonisti si incarnano in strofe e piccoli frammenti di canzoni del repertorio popolare francese dagli anni 20 in poi. Un musical dove l'amore in ogni sua forma trova nella canzonetta una forma comune, appunto l'unica possibile perché adeguata alla dolce banalità e urgenza dei sentimenti. E questo è allora Parole, Parole, Parole, Alain René, alle ore 15 su Rai Movie lunedì 24 ottobre. Il giorno dopo, invece, un film più recente ma ugualmente interessante, Infamous, una pessima reputazione. Esattamente, martedì 25 alle 23.10 su Iris, Infamous, la storia della genesi di A Sangue Freddo, capolavoro del genio letterario di Truman Capote, tra le avventure più eccitanti della letteratura americana e tra le più dolorose e sottilmente morbose, intrise com'è del vero rapporto magnetico, diciamo, tra Capote e uno degli assassini di cui questo libro narra. Tra la commedia sofisticata e toni invece ovviamente drammatici e inserti da docufiction, il film impressiona soprattutto per la performance mimetica di Toby Jones, che è somigliantissimo al vero Capote. E questo quindi l'appuntamento con Infamous, 23.10, martedì 25 ottobre su Iris. Grazie a Giulio San Giorgio e agli amici di Film TV, appuntamento alla prossima settimana. Grazie a te Franco e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. Questi quindi i film da ricordarsi di appuntare per registrarli o per vederli, sono rari possibili tra l'altro per una volta, non sono a notte fonda. Andiamo a giocare con la terza traccia del film ormai pochissimo misterioso di oggi. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il tight, c'era il funerale di mia madre. Insomma, qui mi verrebbe quasi da dire di che film si tratta, tanto immagino che lo abbiate già indovinato in molti, ma la soluzione sarà la prossima settimana. Dovete scriverla alla Rosa Purpurea @radio24.it con il vostro indirizzo per facilitare le operazioni di spedizione del Blu-ray di questo film, che recensiremo poi fra 7 giorni, così come facciamo adesso con lo straordinario capolavoro con cui abbiamo giocato 7 giorni fa. Vuoi che questo forte, lucente e possente guerriero costruisca una fortezza dove puoi rifugiarti, in modo che tu non debba mai aver paura, non debba mai sentirti sola, non debba sentirti esclusa. È questo che cerchi, vero? Sì. Non lo troverai mai. E questo era ovviamente Ultimo Tango a Parigi, Bernardo Bertolucci, capolavoro che arriva in Blu-ray. Lo hanno indovinato per primi sabato e domenica scorsa Massimiliano Raponi di Ascoli Piceno e Marco Bedeschi di San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna. Saranno loro a ricevere il film, il Blu-ray di Ultimo Tango a Parigi, del quale parliamo con il nostro Claudio Poffi, che è in collegamento con noi. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, questa edizione dall'Angelo Pictures in occasione del 40° anniversario è veramente notevole. Nella confezione è presente un Blu-ray con il film che consegna l'opera definitivamente alla storia, audio monofonico, però attenzione perché c'è anche una traccia ad alta risoluzione sicuramente di notevole qualità. È presente anche un DVD con contributi extra interessanti, tra cui segnalo un nuovo incontro con il regista che torna con la memoria ai giorni della ricerca degli interpreti principali e della produzione, e c'è anche un lungo making of. E quindi edizione importante per questo capolavoro di Bernardo Bertolucci, Ultimo Tango a Parigi, un film da riscoprire anche per i più giovani, forse da scoprire addirittura per la prima volta. Andiamo avanti con le recensioni di questa settimana e cominciamo con un altro capolavoro dell'animazione, capolavoro di originalità, di profondità, di tenerezza, che era Nightmare Before Christmas. Mi perdoni, signor Nakele, Ho paura d'aver fatto un gran pasticcio con la sua festa. È duro viaggiare sulla slitta, Jack? La prossima volta che ti viene la voglia di impadronirti della festa di qualcun altro, io darei ascolto a lei. È l'unica ad avere un pizzico di buonsenso in questa gabbia di matti. Scheletri, bau. Spero che ci sia ancora tempo. Per riorganizzare il Natale? Ma certo che c'è. Sono sempre Babbo Natale. Nella città di Halloween, il re delle zucche, Jack Skeleton, sente il desiderio di cambiamento, e non solo personale, ma anche legato all'omonima celebrazione che necessiterebbe una ventata di novità. Scopre il Natale nel mondo reale, decide di coinvolgere i cittadini che non lo capiscono e, incompreso, decide per un gesto sconsiderato che metterà a repentaglio le celebrazioni di entrambi i mondi. Da una storia e personaggi nati dalla fantasia gotica di Tim Burton, questa strepitosa favola dark, che arriva grazie a Disney in Blu-ray, addirittura un'edizione speciale che contiene il Blu-ray nella versione bidimensionale, già editato, e una nuova, nuovissima edizione, la versione 3D, quella creata nel 2006 in occasione del rilancio dell'opera. Sono entrambe di strepitosa qualità, ci sono tantissimi extra. Su tutti segnalo il commento di Tim Burton assieme al regista Harry Selick e al compositore della colonna sonora Danny Elfman, ma attenzione perché all'interno degli extra è presente addirittura un poema originale composto da Tim Burton, letto niente meno che da Christopher Lee. È forse la più importante saga cinematografica d'horror che sia nata negli ultimi 15 anni. Stiamo parlando di Scream e parliamo qui del quarto capitolo. Com'è il film? Quale film? L'alba dei morti dementi. Come fai a saperlo? Perché sono dentro l'armadio. Piantala, non è vero. Che succede? Trevor è strano, sempre che sia lui, non lo so. Non sono Trevor, puttana. Allora che cazzo sei? Apri l'armadio. A 15 anni di distanza dall'efferata catena di omicidi di Bloomsboro ritroviamo Sidney Prescott, all'epoca una giovane tormentata dal serial killer, è diventata una scrittrice di successo grazie a un libro che racconta la sua esperienza col pluriomicida. Alla vigilia del ritorno di Sidney a Bloomsboro per presentare la pubblicazione, la catena di efferati omicidi riprende. Diretto da Wes Craven, il regista dell'intera saga, il quarto capitolo si dimostra all'altezza dei precedenti. Da Mondo Home Entertainment l'uscita DVD, ma c'è soprattutto il Blu-ray di eccellente qualità, doppia traccia DTS ad alta risoluzione italiano e inglese, per gli extra segnalo il making of e le scene eliminate. E allora grazie a Claudio Poffi per averci raccontato un po' le novità principali dell'home video. Appuntamento alla prossima settimana. Un saluto, a presto. E abbiamo finito la nostra corsa qui alla Rosa Purpurea. Come sempre l'ora di cinema settimanale è finita con l'home video e l'appuntamento va a fra 7 giorni. Sarà un'altra settimana molto molto intensa, un'altra decina di uscite. Su tutte voglio segnalare l'arrivo in sala del Leone d'Oro di Venezia, Alexander Sokurov con il suo Faust. Un saluto da Franco D'Assisi.